sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, come non ci smentiamo mai, siamo partite un po' al riletto, non so che cosa è successo al registratore. Va bene, comunque quella che state ascoltando è la 280esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.9 MHz. Oggi qui in radio siamo Caterina che vi sta parlando e con me c'è Lucilla e ciao. Rosina. Che fa ciao con la manina. Ciao con la manina perché non è microfonata come si dice tecnicamente parlando. Allora, oggi avremo un ospite con la quale parleremo di moltissime cose, quindi sarà una trasmissione molto ricca. Ricca come è ricca la nostra ospite, ricca di idee chiaramente. Stiamo parlando di Pina Nuzzo, con la quale abbiamo condiviso alcune strategie e percorso un pezzo di strada, abbiamo fatto un pezzo di strada molto, molto affiancate. Questo perché condividendo alcuni obiettivi specifici per un certo tragitto le nostre strade politiche si sono intersecate. Mi viene in mente il seminario nazionale dell'UDI dal titolo Generare oggi fra precarietà e futuro del novembre 2005 dove come CLR abbiamo fatto un nostro intervento politico. Ma anche la campagna 50 e 50 ovunque si decida oppure scommettiamo su Fatu e ancora l'Anfora, l'iniziativa Immagini Amiche alla quale abbiamo quasi sentito di essere parte di fatto, Cine. Diciamo, visto che erano diversi anni che portavamo avanti una protesta contro le immagini lesive ed offensive per le donne. Ma veramente se dovessimo elencare tutte le cose che ha fatto Pina non finiremmo più, quindi a questo punto speriamo che il tempo non finisca troppo presto, cosa che quando c'è Pina spesso succede. E quindi direi subito di mandare un brano musicale e poi iniziamo subito l'intervista. Adesso ne scelgo uno sperando che il registratore non vada a rilento come quello della sigla. Io direi di mettere per esempio una bellissima canzone di Ochi Curiel, Mujer is Tiempo. Perfetto. Mujer, has nacido oprimida. Quizás tu conciencia ha dormido. Tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos, mujer, te has estado entregando. Ciegas como el aire en el llano, mujer, oye tú mi llamado por ti, la esperanza ha brotado por ti, vuelve y nace la vida. Sin ti la vida y nace una nueva ilusión. Luchar, aminora tu llanto, vivir en lo libre y lo amado. Sin ti hay instancias vacías. Sin ti ya no existe el amor. Bene, come dicevamo prima, abbiamo Pina Nuzzo con noi, che ha fatto tantissime cose, ma in questo momento ne sta facendo una per noi molto importante. Allora, intanto buonasera a tutte, bentrovate, bentrovata Pina, che è qui con noi e che non è la prima volta che viene in radio con noi. No. E quindi la nostra collaborazione continua, come dicevamo prima, ci troviamo spesso a condividere alcuni modi di vedere, cioè un'ottica sul mondo. E adesso Pina sta facendo un lavoro particolare e quindi la prima domanda è: come nasce l'esperienza dei laboratori donne che tu stai facendo? Allora, intanto, cosa sono? Sì, mi faceva piacere dire che sono contenta di essere qui questa sera e in effetti di riannodare un filo che non è che si sia mai spezzato, ma mentre prima Caterina riassumeva tutto il percorso di questi ultimi 10 anni, poi in maniera particolare, ho pensato che in alcuni momenti importanti di questi 10 anni, quindi il seminario generale oggi, la campagna 50-50, la staffetta contro la violenza e le immagini amiche, io ho avuto sempre modo di venire qui invitata da voi a raccontare. E quindi aver modo di parlare a tante più donne, e questo mi fa molto piacere. E come nasce questa esperienza? Io periodicamente, forse devo dire ciclicamente, come i serpenti cambio pelle. Ecco. E questo poi è anche una pelle un po' particolare, perché non ci sono solo questi 10 anni, ma io quest'anno sono 40 anni, ho fatto i conti, che sono nell'UDI. E quindi ho veramente tanto. Cioè, adesso chi non mi vede, può pensare che io sia proprio molto molto più vecchia di quello che uno può immaginare. In realtà ho cominciato molto presto, ho cominciato a 21 anni, io ho cominciato con la legge per la 194, quindi ho fatto tutta la trafila del femminismo, diciamo, storico, che non vi sto a raccontare. E in più questi 10 anni di cui dicevo prima. E però adesso a un certo punto ho pensato che bisognava fare uno scarto, un passo di lato. Una virata. Brava, una virata, hai ragione Lucilla, perché tutta la politica di cui parlavate prima, a cui facevamo riferimento, è stata possibile grazie ad uno strumento che è entrato prepotentemente nella scena della politica, soprattutto anche della politica delle donne. Parlo di internet. Cioè, non sarebbe stato possibile fare tutte quelle campagne e collegarci con tanti gruppi diffusi in Italia e così diversi tra di loro, e cercare un modo di fare delle cose confluenti, non voglio neanche dire insieme, comunque in una stessa direzione, senza internet. Quindi ho voluto costruire uno spazio banalissimo, un blog. Stiamo parlando di Laboratorio Donne, che è un blog, e non ho voluto, ho scelto di non farne un'associazione, perché poi ognuna di noi ha anche già dei luoghi a cui appartiene, a cui fa riferimento. Però volevo che le relazioni costruite in questi anni e quelle che ancora posso costruire avessero uno spazio simbolico in cui mostrarsi. E di riferimento. Quindi l'ho chiamato, dopo aver consultato le donne con cui appunto ero in relazione, scrivendo a quella. In qualche modo è una forma di comunicazione verticale, se vogliamo usare una parola che fa paura, ma in realtà era anche un modo di aprirmi a raggiera, no? Come una ruota che certo, si apre e con tanti raggi che chiama le donne a dire cosa ne pensi. E Laboratorio Donne si scrive donna, che è una parola che non esiste, perché ricorda il latino domina domine, no padrono, mm-hmm, signora, ma in italiano è donne, donne non esiste. Però a me piaceva perché ti contiene contemporaneamente il plurale e il singolare. Certo. E quindi è stato Laboratorio Donne. Bene, quindi nasce così questa esperienza, no? Da, sì, dalla volontà, dalla voglia di mettersi in relazione ancora di più. Di mettersi in relazione e anche di scegliere, io dico sempre, scrivere nel merito delle cose, no? E al di fuori dei pregiudizi. Quindi quello spazio è uno spazio in cui chi vuole può scrivere, però sempre fuori dalle polemiche, cioè entrare nel merito delle questioni, perché un limite del femminismo, soprattutto di questi ultimi anni, è quello di andare molto per slogan, molto per femministese, molto per un linguaggio, come dire, già dato, e quindi a tutte sembra di dire la stessa cosa. In realtà bisogna entrare un po' più nel dettaglio, poi se volete ne parliamo un po', certo, di più di questo. No, se posso, se mi posso permettere, certo, quindi mi sembra di capire che oltre ad essere uno spazio di relazione, sì, e di relazione autentica, no? Quello è questo che stai dicendo, sì, mi sembra. Però mi viene da dire che utilizzando questo mezzo c'è la possibilità di raggiungersi sempre, quindi di essere in contatto sempre e di allargare enormemente le possibilità di contatto. Sì, le moltiplichi, sapendo, questo è anche un progetto del laboratorio, che noi passiamo periodicamente dalla dimensione virtuale all'incontro reale. E che, sì, questa e è l'altra cosa importante. È come fosse una sorta di ponteggiatura, no? Uh-huh, quindi ne abbiamo già fatti due di incontri, il prossimo sarà il 2 giugno, e la cosa bella è che quando da una volta con l'altra poi decidiamo quando incontrarci, lo decidiamo insieme, però io non so se saranno le stesse donne del primo incontro, perché via via si aggiungono, e si aggiungono donne provenienti da tutta Italia, perfino da Lugano e da altri paesi. E mi sembra che tu hai già anticipato la risposta alla seconda domanda che noi volevamo farti, ed era proprio quella di come gestisci la possibilità di metterti in relazione con queste donne utilizzando questo tipo di strumento. Hai già risposto dicendoci che lo utilizzi in questo modo, così come, sì, l'hai espresso, e in più però ritorni anche alla possibilità al di contatto, incarnare, no? Sì, la fisicità, sì, che molto è fondamentale per noi donne, perché poi noi siamo fatte proprio di questa grande possibilità, cioè quello di essere dei corpi, sì, e questi corpi hanno una loro... I corpi vanno anche nutriti, no? Esatto, vanno nutriti. Sì, sì, allora, sì, quello che io ho fatto in tutti questi anni di politica nell'Udi, con le campagne, è stato quello di pensare le parole, perché un'idea politica va lontano se ha le parole giuste. Certo. Se non, e avendo le parole giuste, le donne fanno propria quell'idea, e non c'è bisogno di dire quell'idea era mia, l'ho pensata prima io, era giusta. No, certo, perché la forza di un'idea per me della politica delle donne è quando va per la sua strada e cammina. Certo, certo, perché se cammina, se sono tante donne a sostenerla, esatto, perché se no non si va da nessuna parte. Sarebbe anche bello che poi le donne riconoscessero l'origine. Questo non sempre avviene, ma non ha importanza, questo lo conosciamo. Però per esempio io ho, anche con il laboratorio, ho pensato un volantino, no? Ho detto io, vabbè, negli altri anni pensavo un manifesto, lo stampavo, Ludi lo stampava, quest'anno non era così, però io ho detto penso un volantino, un manifesto che ogni donna può fare suo e stampare, e così è stato. Mm-mm. È piaciuto molto, perché pensare le parole e darle, regalarle anche, voglio usare questa parola che non, di solito non si usa, no? È un modo per costruire una dimensione collettiva che io trovo sempre più importante. Ma infatti l'aspetto di questo laboratorio donne che a me ha colpito era la possibilità di sentirsi, non appena tu entri in contatto con quel blog, di essere comunque parte integrante da subito. Cioè non c'è una linea guida che viene stabilita e si cercano adepte, tu lanci appunto degli input che sono input di discussione, di riflessione, dove ognuna ha la possibilità di dire la propria, capito? Sì. E anche semplicemente faccio un esempio di una questione che io a un certo punto ho ritenuto di dover affrontare, perché poi basta avere un po' di orecchie, no? Ascoltare cosa avviene intorno nel paese. Nella fase, diciamo, precedente le varie primarie e poi le elezioni, io sentivo dire con grande semplicità, tutta la questione del matrimonio gay, e vabbè, fin qua voglio dire, ognuno poi la pensa, però molte volte mi capitava di sentir dire, prendiamo Miguel Bosé, no? Cantante, in televisione diceva: ma io ho avuto due gemelli e quell'altro aveva avuto due altri figli, e io mi dicevo: ma questi uomini come li hanno avuti questi figli? Cioè l'avere dei diritti, no? Tutti hanno dei diritti, a volte passa sul fatto che per avere quel diritto tu stai passando sul corpo di qualcuno. Allora io ho aperto la questione. Va benissimo che una coppia gay possa adottare un bambino, mi sembra, insomma, su questo ma il volere i figli di sangue, no? Mi ricordo gli anni del femminismo in cui noi dicevamo che non è che il fare figli era importante, no? Ma certo, sì, bisognava occuparsi anche dei figli degli altri, di quelli abbandonati, il terzo mondo. Cioè, c'era un respiro ampio su questo. E invece io mi ritrovo con i gay che vogliono i figli propri, i loro, del loro sangue. Beh, questo dice che c'è una differenza tra il corpo del maschio gay è una donna lesbica, perché una donna comunque può fare un figlio e il seme è una cosa molto più, come te lo procuri molto più semplicemente, ma procurarsi un utero è una cosa molto più complessa. Tra l'altro io ho fatto una ricerca prima di scrivere il post, che insomma chi vorrà andare poi sul blog li leggerà, e mi sono resa conto che ci sono addirittura cataloghi, siti internet che mettono a disposizione. Allora, cosa comunque c'è uno sfruttamento del corpo della donna a prescindere, ma cioè tutte le lotte femministe di cui parlavi prima erano anche indirizzate ad un concetto diverso di genitorialità, no? Nel senso che il genitore non è semplicemente chi procrea o mette al mondo un figlio, è un ruolo che noi pensavamo si dovesse ricostruire su presupposti diversi. Ora, io non ho niente in contrario al fatto che crei un nucleo familiare o di due donne o di due uomini, non sto mettendo in discussione questo, dico semplicemente che il discorso di genitorialità, cioè l'essere genitore, deve passare assolutamente attraverso la presa di coscienza di determinati requisiti che non sono l'aspetto materiale della cosa, il sangue, capito? Cioè queste, noi come vecchie femministe, perché tu me li ricordo, quindi voglio dire, stiamo sullo stesso piano, però voglio dire, erano battaglie che noi abbiamo fatto credendoci, perché pensavamo che la famiglia, tra virgolette, dovesse avere dei requisiti diversi. Perché ho fatto questo esempio, che è anche uno dei più, insomma, è stato il più abbastanza difficile, faticoso, delicato da affrontare? perché molto spesso di fronte a certe aperture di parte politica, come dire, sembra che sia tutto semplice, come sì, se non ci fosse un prezzo. Allora io mi chiedo sempre, di fronte a certe dichiarazioni dei politici, chi paga il prezzo? Certo. Se il prezzo lo pagano le donne, io comincio ad qualcosa avere qualcosa da dire, ci sta, è certo. Sì. Certo. Allora, prima di proseguire con l'intervista, mandiamo un altro piccolo stacco musicale? Sì, dunque, scelgo un'altra canzone, mettiamo... ecco, questo qui, Melissa Etheridge con il brano Mama, I Am Strange. Giusta. Little lie they keep on telling me. Allora torniamo in diretta e torniamo anche con una cosa un pochettino più recente, più attuale, no? Tu hai detto che hai fatto diversi incontri partiti proprio dal blog, no? Sì. E quindi uno di questi incontri di laboratorio, come, su che cosa era? E se ce ne vuoi parlare, perché io ritengo sia molto anche il titolo era molto avvincente. Sì, sì. E l'ultimo incontro l'abbiamo tenuto qui a Roma il 25 e il 26 di gennaio e si chiamava Emancipata sarai tu. Era un po' provocatoria, no? Però l'intenzione era quella di rinominare l'emancipazione, no? Riportare questa parola che per anni è stata una parola che nel lessico femminista non si poteva usare, perché voleva dire automaticamente parlare di omologazione, come se il movimento di emancipazione fosse stato solo quello. E quindi mi sembrava importante, soprattutto dopo aver avuto modo di ascoltare giovani donne parlare del tipo di lavoro che fanno oggi, no? Molto parcellizzato, molto frammentato. E però anche alcune cose interessanti che notavo e che loro stesse dicono. In fondo nessuna di loro rinuncerebbe ad un lavoro, almeno la dico così che è più semplice, nessuna oggi pensa a un lavoro che ti riempie tutta la vita, perché si vuole fare anche altro, e quindi curare degli interessi, fare politica, perché per le donne che ho avuto modo io di incontrare questo è molto importante, oppure studiare di più, cioè fare delle cose che non sono tutte dentro il lavoro. E però nello stesso tempo questo ti fa fare i conti anche con il concetto di emancipazione tradizionale, no? Leggevo di alcune di queste giovani donne, tra l'altro alcune fanno parte del gruppo Diversamente Occupate, alcune altre le avevo conosciute nella scuola politica dell'Udi, e la cosa che mi ha fatto pensare è che quando queste donne poi si sono a un certo punto sposate, hanno deciso di mettere su casa, si sono trovate a fare i conti con il proprio tempo, con il tempo della cura, con il tempo della manutenzione, che sono due cose molto diverse, con il non voler rinunciare alla cura, perché avere cura degli altri ti dà anche potere, no? Sugli altri. E quindi una riflessione anche più raffinata, più riflettuta, se posso dire così. Allora mi sono detta, forse è il caso di riparlare dell'emancipazione, e partendo dalle esperienze concrete di queste donne, quindi ho chiamato alcune donne, un po' chi aveva esperienze di istituzione, chi dentro l'università, chi pur facendo lavori appunto dottorati all'università allo stesso tempo lavorando come commessa, cioè facendo diverse cose. E la cosa però interessante che volevo rimettere al centro della questione era, ed è secondo me ancora, se noi siamo come donne, come movimento politico, ancora nella logica delle tutele o della libertà. Cioè, che cosa voglio dire? Se noi siamo ancora nella logica delle tutele, allora pensiamo di avere molti diritti e pochi doveri. Mentre io penso che avere dei doveri significa avere più cittadinanza. Provo a spiegarla questa cosa, sennò può sembrare punitiva. Quando noi abbiamo detto 50 e 50 ovunque si decide, non stavamo parlando di quote del 20, del 30, rosa soprattutto. Stavamo parlando del rifondare una società a partire dalla differenza, non dall'uguaglianza, perché non siamo uguali. Certo. Quindi 50 significa quel 50 di un certo fatto in un certo modo e quell'altro 50 fatto in un altro modo, con appunto delle disparità. Queste disparità però non sono soggette a delle tutele. E su questo mi hanno fatto riflettere molto le ragazze, le donne del gruppo Diversamente Occupate, i loro blog, quello che loro scrivono. A proposito soprattutto ultimamente hanno scritto qualcosa sul bisogno di stare in piazza, di occupare la piazza con dei corpi che sono lì presenti, che non si sottraggono, che non hanno bisogno di essere tutelati o accuditi o protetti. O protetti. Quindi un corpo che si batte, a differenza, dicevo io, del mio corpo, che l'ho vissuto sempre come un corpo violentabile, come un corpo che invece si doveva sottrarre. Da salvaguardare in qualche Brava. Modo. Brava. Quindi vuol dire che il femminismo ci ha fatto fare un passo avanti anche su questo. Come questo bisogno di essere in piazza con tutto il corpo, anche a rischio del proprio corpo, questa è una cosa nuova, interessante, ci deve però far ripensare quale ricaduta nel contratto sociale, no, a questo. Cioè, per noi la tutela della lavoratrice madre, quindi della donna che aveva bisogno, ha voluto dire alcune leggi, alcune tutele. Oggi che le donne non sono più un soggetto misero, svantaggiato, cioè, certo, ci violenta, non ci ammazza, ma questo fa parte di un altro discorso. No, la questione è come ti vogliono gli altri o come tu ti senti. Esatto, ecco, sono queste le due questioni. Questa è la scommessa della politica che noi abbiamo davanti. Chi vorrà, sul blog di Laboratorio Donne, che è laboratoriodonne.wordpress.com, quindi su Word, ma lo trovate facilmente, abbiamo pubblicato il PDF di alcuni degli interventi che sono stati fatti. E quindi chi vuole leggere che cosa è stato, non tutto, non c'è tutto, anche perché molte hanno fatto ricorso alla propria esperienza personale, quindi poi quando fai il passaggio dal racconto allo scritto, come dire, c'è uno scarto, c'è, ed è giusto che ci sia, perché se no, allora che gusto c'è se no a partecipare, no? Certo. Voglio dire, uno legge e certo. Basta. Però chi vuole avere un'idea può andare a visitare, sì, e scaricare questo PDF e leggere, e anche magari dire lasciare la un sua commento, scrivere, certo. Perché insomma, certo, il dibattito è tutto in divenire. Il microfono. A proposito di questo proprio discorso che tu fai rispetto al corpo delle donne. Più vicina. Grazie. Va bene così? Sì, vai. Sei perfetta. Perfetto. Dicevo, proprio a proposito del discorso del tornare in piazza con i propri corpi, con la propria fisicità, proprio in questi giorni abbiamo visto la protesta di queste donne, delle femmen, anche oggi erano in piazza San Pietro. Tu che cosa ci puoi dire di questa cosa? Cosa pensi di questa nuova forma di protesta che riporta proprio fisicamente alcune donne, e qualcuna dice soltanto una certa tipologia di donna, e qui magari c'è anche una critica, perché sembra che queste femmine siano tutte quante bellissime. Qualcuno critica il fatto che queste donne se ne vadano in giro a seno nudo e vengano maltrattate da polizia, carabinieri, per non parlare insomma di preti e compagnia cantante, visto che oggi siamo in conclave. Certo. Ma intanto è un tipo di protesta che viene consumata, no, immediatamente, perché è chiaro, viene molto fotografata, e oggi la protesta che si può consumare è una cosa che va. E non la giudico, io non ho atteggiamenti moralistici su queste cose qua. Io però parlavo di un'altra cosa ancora, perché per il primo femminismo stare nelle piazze aveva il significato dello stare insieme, diventavamo un corpo unico, e anche il modo di stare in cerchio, sedute in un certo modo, era trasgressivo, però passatemi il termine, ancora con un dato di femminilità. C'era un elemento anche estetico. Sì, però era anche la scoperta della forza, perché donna lo sai, la forza che hai, la risposta era sì, lo so, la forza che ho, perché era proprio il modo di stare insieme finalmente, cosa che invece fino ad allora gli uomini e la società aveva diviso le donne, ogni donna stava nella sua casetta, quindi quel era... Perfetto, era aggiungi, anche quello, esattamente, no? era anche quello, sì. Esteticamente, certamente, e tant'è che ancora quelle immagini hanno una potenza enorme. Sì. Adesso quello che io avverto è il bisogno di corpi di donne che non hanno bisogno del cerchio per stare in piazza, certo. Ecco, vogliono autodeterminarsi nella piazza, proprio con la loro, con la, ognuna con la propria, che non significa da sola, significa sapere di essere in tante di più e anche di avere un riconoscimento da parte delle, della polizia, di chi ti sta davanti, cioè che ti riconosca come corpo combattente. Mm? Sì. E questo è lo spostamento, che non è la parità, non lo voglio omologare a questo, alla presenza del corpo dei maschi, i quali poi in piazza ancora oggi tendono a, a prevalere. Certo. Noi, guardo te Lucilla, ma insomma, perché molte ma ci ricordiamo le manifestazioni, riprendiamoci la notte, oppure le manifestazioni tremende nel tempo del terrorismo, quando il femminismo tendeva a tenere fuori i corpi dei maschi, intesi anche simbolicamente come forze eversive e drammatiche. Certo. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, di un corpo che è già parte di questa nuova rappresentazione dei generi, secondo me. Ed è interessante, il blog, la rete mi permette, io sono molto curiosa, nel senso, quindi profondo del termine, no? È anche una libertà che mi viene dall'età. Per chi non mi vede, non mi conosce, ho 62 anni, così potete mettermi a fuoco. A fuoco, ecco. Bello. Ecco. No, esatto. No, non volevo dire questo per Lucilla. Mi è in buona compagnia, comunque, tranquillo. Io ero più vecchia. No, ma mi interessava perché quello che poi si legge in rete, ecco, voglio tornare a questo, se non volete interrompere, mettete la voce. Quello che mi interessa della rete è di guardare e costruire la possibilità poi di parlarci e di vedere questi corpi che oggi sono così, così altri rispetto a come l'ho vissuto, come eravamo noi. Perché se no stiamo sempre a fare le femministe grilloparlante di cui non se ne può proprio più. Certamente. E qui, se vuoi, metti pure della musica. No. Allora io ne approfitto per ricordarvi che quella che state ascoltando è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per ascoltarci subito. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure potete inviarci un sms al 339 853 6270 che rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Poi, se volete riascoltare le trasmissioni, dovete andare sul blog, stiamo parlando di blog anche il martedì, ne è uno, è mfla.noblog.org. Cercate È una calamità e se cliccate sopra Una calamità troverete tutto l'archivio delle nostre trasmissioni. Io direi, siccome mancano soltanto 5 minuti e sicuramente ruberemo un attimo un po' di tempo, mandiamo un'altra canzone, così facciamo un minimo di pausa e poi riprendiamo con un altro argomento. Metto Mariella Nava con Il nodo, la gabbia e il seme. Non è più il tempo, no, se tira un altro vento che fa sentire, che fa capire, cambia gioco. Thank you. Allora, risiamo nuovamente in studio, siamo sempre con la nostra ospite preferita in questo momento. Grazie. C'è lei e quindi è preferita lei. Vabbè, va bene. Va benissimo, Pina, così. Pinanuzzo. Pinanuzzo, le vorremmo porre un'ultima domanda. Pina, in questo momento è tornata di grande attualità il tema della violenza sulle donne e soprattutto con gli ultimi fatti, sia a livello internazionale, i fatti dell'India che hanno fatto balzare in prima pagina, no? Fatti che ci sono sempre stati e sono sempre esistiti in India, dico. Ma anche in casa nostra il processo dell'Aquila, no? Certo. Del poco che è stato dato allo stupratore, certo. Colto, sì, sì, veramente, che era un tentato omicidio in realtà, no? Oltre che quella un grida vendetta. Sì. E allora, cosa pensi allo stato attuale della situazione generale, anche in relazione alla tua esperienza rispetto al lavoro che avete fatto con l'Anfora e quindi con il portarla in giro per tutta l'Italia? E che cosa ci puoi dire al riguardo? Che connessioni vedi, sì, rispetto a questi nuovi sviluppi che tanto nuovi non sono, ma cioè, che purtroppo rieditano i vecchi, mettiamola, sì, così. Guarda, rispetto all'esperienza della staffetta, che è stata una cosa straordinaria e che ha attraversato l'Italia per un anno ed è stata talmente straordinaria che non ne ha parlato nessuno, ma questo richiede un'altra trasmissione. Questo lo so perché conosco altre donne dell'Udi in provincia e so per come mi hanno riferito che c'è stata una partecipazione nelle città che è stata assolutamente enorme, straordinaria, nelle scuole, nelle chiese, sì, dovunque, proprio con è stata una partecipazione, una grande partecipazione, ovviamente misconosciuta dalla stampa, ma i media sono un'altra cosa, vabbè, rispetto alla città, alla vita reale, e le parole d'ordine di quella campagna sono state le due che riassumono: era non vittime ma testimoni, cioè il senso di quella campagna era di non obbligare nessuna donna a raccontare la propria storia, perché tanto lo sappiamo tutte, ma testimoniare insieme del fatto che c'è un crimine che viene perpetrato contro le donne da millenni, sempre, ovunque, quindi di combatterlo con forme anche creative. Quindi questo movimento che c'è stato, secondo me ha anticipato qualcosa che sta venendo avanti di molto forte, che si collega sia al discorso della piazza che dicevo prima, al bisogno di corpi, di autodeterminarsi come soggetti, anche di una fisicità che non è solo quella del dato femminile del corpo da proteggere perché è violabile, perché è un corpo che procrea, ma proprio una fisicità diversa. E anche il fatto che le donne non sopportano più. Internet oggi permette, uno, di sapere in tempo reale dove avvengono, che cosa avviene. Internet è diffuso, lo usano anche le donne nei paesi più sperduti del mondo e anche quelle con meno possibilità economiche, cioè non bisogna poi neanche essere tanto istruite, no? Internet, certo, è, arriva dovunque. Questa forma di comunicazione, la possibilità di parlarsi e anche la capacità oggi di dare parola all'indignazione, cioè questi anni di femminismo non è che sono passati invano, che non sono. In realtà ogni donna oggi non solo non sta zitta, ma sa cosa dire, mentre prima, se ci pensiamo, non veniva neanche messa in parola La questione dell'aborto, non veniva messa in parola la questione della sessualità, neanche la violenza. Ecco, questa capacità oggi e questa forza femminile che viene avanti, perché è una forza femminile, sarà la leva per un femminismo altro. Non dico neanche nuovo, non dico altro, perché altri sono i soggetti, sia donne sia uomini, perché sono, come dire, anche gli uomini devono fare i conti con questa ondata diversa e con questa soggettività completamente nuova. Sì, certo, siamo d'accordo. E direi che... Sì, io l'avevo detto all'inizio della trasmissione, quando c'è Pina il tempo vola, è volato, cioè già abbiamo già sforato di 2 minuti e quindi a questo punto non possiamo far altro che ringraziarti. Grazie. Ci prendiamo un appuntamento per la prossima volta per parlare di tutte le altre 7000 cose di cui avremmo voluto parlare con te. Una scommessa è quella che hai detto ora tu, mentre eravamo fuori onda, cioè per esempio rincontrarci sulle donne che stanno in politica e il significato, no? E il rapporto con il potere. E il rapporto con ci il sia potere. Questa l'altra parola di cui dovremmo tornare a parlare, anche facendo una valutazione di che cosa significa oggi più donne elette, meno donne elette, quote, non quote, insomma credo che anche cioè, più donne elette, ma per fare che, per esempio, no? Non apriamo questa questione, questa è un'altra questione, è un'altra. Ancora alla però... prossima, alla prossima, grazie, alla prossima. Grazie, grazie Pina, grazie. Grazie, alla prossima. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.